sento bene, però sempre con un po' di eco, diciamo, un po' di lontananza. Noi dimmi, basta, sei troppo amplificato, basta, sei troppo, siete troppo. Abbassa, Doni, abbassa, abbassa, amplificazione. Abbassa, non più, Aru. Sei troppo alto, troppo alto, troppo, abbassa, abbassa. Scusa, ma se io mi compro un Ferrari, perché devo andare a 50? Tanto mai mi compro il solito busetto. Puoi correre dove puoi correre, usualmente, Antoni, ma stiamo parlando di radio, sei troppo alto, troppo amplificato. Poi, non so se sto sbagliando io, qualcuno mi corregga. No, non stai sbagliando, ma a me piace essere amplificato. Ma lo vedo, non si comprende una mazza. L'importante è che lo capisco io. Vabbè, fai gusti, qualche sia un po' gusti, ma no, mi ha già detto. Allora, Samanetta, mi capito lo stesso, penso che sia troppo amplificata. Io ti sento bene lo stesso, mio. Ma molta gente non va bene perché è troppo amplificata. Giusto, Claudio? Mi confermi o no? Io confermo. Io, guarda, io c'ho sempre questa modulazione, non la cambierò mai. E la mia è questa, mi riconosco la voce. Avete lasciato il parcheggio a Pomponio. No, sono tutte le amplificate, stiamo facendo la gara, vecchie più forte di radio. Vabbè, fate come volete, io ho detto la mia, poi ognuno può uscire come vuole, può uscire tutto gracchiante, tutto distorto, tutto a frusci e fraschi. Non sono gracchiante, non sono distorto, non sono a fruschi, perché mi sono già sentito, messo qua, mio figlio io l'ho sentito con un apparato fuori, e la radio è forte, ed è chiara. Ma ho detto che la radio non sia forte, è troppo amplificata, Tony, troppo amplificata. È con te. Va bene così. No, io bacio tutto, poco a poco, da quanto c'è, com'è, che microfono hai? Il super, super, super, Sideric. Super Sideric, ok. Quanto è il volume? Quanto è? Uno? Da uno dove? No, c'è tre punti e basta. Sono 5 punti. Ma cannonata, Vabbè. Non voglio lasciare con di voi, però secondo me è troppo alto, poi lascialo così. È troppo amplificato, Tony. Poi quello magari lo puoi fare quando stai facendo un collegamento, che magari in lontananza magari va bene. Però qua in locale non è troppo forte. Ho abbassato il making, io ho abbassato. Bene, ma così. Adesso va bene, sì. Adesso meglio. Cappa. Allora, Pomponio, arrivare i bip, 50 bip. Uno dei bip, non è morto, no? Anzi, da gente svizzera e vede 4-5 bip. Aspetta parecchio, lo sai. Sto usando adesso il Condes 4000. Dagli un po' con l'amico tuo a testa, gli quello col bip. Quello di Giovanna è malacchino, non è quello mio, la verità. Sono quello, dico, esce male, esce cosa, non lo so, adesso vediamo un po', cosa vuoi che dica. Comunque io poco fa ho capito che Antonello vedeva i marziani coi tradici. Magari. Marco lì, ti dà niente, Antonio riprendi. Cappa, io invece c'ho la radio normale, c'ho, bene va. Perfetto. Cappa, no, sto utilizzando una radio normalissima. È un Intec M790 Plus. Va bene, non mi interessa, tanto ma fa questa ora notte. Cosa? Non sarà tutta questa grande radio, ma già va bene. L'importante è sentirci. Avanti, Luca. Tanto. Aspetta un attimino che devo fare una cosettina e riprendo subito. Riprendete voi un attimo. Cappa, il segnale buono è da quelle parti, a San Camillo. 9:12, 9:15, dai. A voi, già va bene. Cappa. A che c'è rimasto? C'è Pomponio, io, tu, Luca ha fatto per X, poi chi c'è rimasto? Claudio per X, senz'altro, deve andare la partita con lui. Capavemma arriverà pure Antonio Grotte. E poi col Marabombi è pesante, Francesco. C'è l'amico Francesco. Francesco, ci senti? E ogni tanto che perdo, adesso già ti sento. Dove sei arrivato? Tu passi? Torre che era il discorso di Lugaggio. Arrivo anche a Tula io. Ma infatti sono meravigliato, a Tula arrivo pure io. Tula già è vicino, ma dopo Tula siete cavalta. Non è vicino, vicino Antonio. Ma che sta a Tula, lasciamo lì. Mi sembra strano. Io non ci arrivo anche così lontano. Ma sei sicuro che sia a Tula? Secondo me è stato lei fissa, perché è fisso il segnale? No, no, già in movimento. Dove sei l'amico, mi senti? Sì. Vabbè, la macchina nuova, quindi no, non lo so se si è partito. Però segnale fisso. Segnale fisso a fotti di vita, ci ha piaso per il culo questo, basta. Non ha fatto altro che cazzo. A Futudini, tanto, ma fisso forte il segnale lì, è come se l'avessero piombato, cazzo, e cosa ti posso dire? Io la ferrovia, gli priva le ozieri. Io sono negativo addirittura, fino a Scaligioca, ha fatto un botto, mi pare che sono la Tula, ma... Ma cosa cazzo Tula? Ma sembra strano. E poi tu, c'hai una penna che non è proprio un granché, diciamo, e arriva che tu a Tula. Per come sono messo, eppure dico che questa mi soddisfa, ti dico, non sarà un amanto, però questa mi soddisfa, ho la posizione di merda, se no già pompo, però questa che è più vecchia, questa mi soddisfa di più. Beh, se arrivi a Tula, Luglia. Oh, a oggi lo, cioè, se arrivo 9.5, cioè 9.10 attaccato e 9 normale, a ciò al nido dell'aquila, non è male per la posizione che sono, per la lontananza che c'è, non è buccia di giocano. Guardate il segnale uranio. Cappa. No, ma altro Gianni, altro. Si è andato con la macchina lì, passavo da 9 a 9.10, e non è male. Augilo, cioè quel punto più alto che c'è. Va bene, dai, continuate voi un attimino che mi sposto un secondo. Cappa, avanti lui. A te come sta arrivando io? Da me c'è 9.30 qua. Ed è come chiaro 5, come sto usando il barchetto Giovanna. Sì, no, è perfetta, va bene. Allora già va bene, sono contento. Cappa, però poco fa lo stai pilotando con troppo ingresso. Cioè, come che io mi attacco l'amplificatore, non vuole pilotato così. E come che io vado e ci attacco l'Intec e l'altro, il 550, non va assolutamente bene. Troppo ingresso. Questi devono lavorare con 4 parti, 5 massimo. Allora sì che lavorano bene. Poco fa stavo usando il 2009 per esattezza, adesso sto usando il Condor 4000, quello che mi ha regalato Marco Condor. E va la grande va. Quindi figurati tu, te lo sto dicendo. Cappa, ti stavo dicendo Ale, già va bene già. Ma non cazzino usano il cazzino. Come sta arrivando lì? Fai un po' tu. 1, 2, 3 prova. 9.25, sì. 9.25 già va bene, dai. La voglia, basta e avanza. Sì, poi, se provo questo non so se va bene, se provo l'altro. Con quello là già va bene. Quello che vuoi prova, non c'è problema per quello. Ehi, cappa. Proviamolo a vedere come esce, da un po' che non la accendo, aspetta. D'accordo, ok, da. Facciamo le prove. Mia. Avanti, chi è? Bobucci. Ah, Torino, ciao. Ben entrato, Bobucci. Davvero una anzura, ho giocato con Rizzo, Torino. Sato a mangiare il prato. E poco fa c'era un sacco di sovrammodulazione, eccetera, eccetera, capito? Quindi a un certo punto, come si dice, no? Non calcolo nessuno, calcolo fare solamente quelli che ci sono e basta. Dopo domani vado e mi compro un'antenna. Che te li prendi da Mantova, no? Non può essere. So cosa puoi comprare, va? Ho capito. La Turbo 2001. Un'antenna buona. E metto un palo di 10 metri e me la piazzo al centro. Visto se l'ho illuminata. Questa non la so stesso, però uso l'altra. Una o l'altra, vediamo. Vabbè, quello che vuoi. Ma secondo me ti conviene aspettare. Se trovi una casa come si deve, bella, che tua, ti piace ciò che vuoi e sei tranquillo. La installi, non la stacchi più. La discorso è quella. Tu devi andare, cioè installare verso un'antenna che costa 100 per 10, 150 euro e poi devi staccarla, non esiste più. Secondo me ti conviene aspettare. Controllati un po' di quelle, qualche appartamento, cosa del genere, una villetta, quello che è. In modo che sei tranquillo, che non ti rompa le balle nessuno, allora fa il culo, non ti costa niente aspettare. E ti installi l'antenna che vuoi, da lì non la stacchi più. Poi al limite ti installi una bella F come si deve, VU, o non so, qualche direttiva, quello che è. Ti spendi i soldi così per divertirti, più che altro. Antone, ma hai bevuto? No, non ho bevuto, grazie a Dio, ma sto dicendo, secondo me è così. Io me l'avevi giocata così. Cioè io per spendere adesso un'antenna per baracchino, installarla e cosa devi fare? Non devi fare nulla. Ti puoi staccare di nuovo, no? Antonio, se io voglio buttarmi domani 200-300 euro, a me non me ne fotte nulla, non hai capito? Allora, a me non mi sta buttando nessuno fuori di casa, prima base. Qua posso fare quello che voglio. Non me ne so quando ne va, eh? Se me ne vado fra 5-10 anni o 20 anni non me ne affronti nulla. Posso fare tutto quello che voglio. Quindi, piazziamo un'antenna, poi se cambio idea, dopo 1-2 anni mi voglio comprare un'altra casa, mi smonto l'antenna e me la porto via. E non capisco il tuo problema, non disturbo nessuno perché ho provato qua nella vicinanza le persone che ci sono, che le conosco tutte, grazie a Dio non disturbo nessuno. Tutto questo problema che stai dicendo, boh, io non lo vedo. Me lo date un controllo per vedere come esco? Esci bene, a voglia, si è appena assato, ma appena. Ho messo un'idea a te, saturo? Sì, un pochettino saturo, sono 9.25. Addirittura più dell'altro, va. Tappa. Ma i coglioni. Capito, Antonello? Sì, ti ho capito, Tonino, non è quello il problema. Il fatto che tu sei quello che ti voglio dire, più che altro. Trovate una casa stabile, hai capito? È quello che ti voglio dire, mi. E sei tranquillo, magari non lì dove sei adesso, che è casa tua, c'hai già diretto, c'hai quello che per quello che ti piace, tutto lì. Quello ti volevo dire me, Tony, non ti volevo dire altro, la verità. E sai, quello che ti piace, sei a posto. E sei tranquillo. Tutto lì, non te lo devo dire altro, la verità. Poi dipende, ognuno fa da sé quello che vuole. E a un certo punto, tutto lì. Lo sai che le antenne purtroppo dopo 2 anni si ossidano, e qui un casino che fa poi delle scosse è quella. Antone, io problemi non ne ho. Mi si usa, me ne comprare già c'è 5, 4 lo tengo indossate e ogni 2 anni me la cambio. Che problema c'è? Ce l'ho capito. A me non mi manca nulla, hai compreso? Manco di là. Oh. E poi ripeto, se mi dovesse, un'ipotesi sto facendo, perché tu non sai cosa c'è sotto sotto, se dovesse dirmi si cerca una casa, mi dà 20.000 euro, non hai capito che non me ne vado con il 448. Molte cose tu non le sai. Io da qua non me ne lascio andare, mi trattano bene, mi vogliono bene, non me ne vado da nessun posto. Sto bene qua, posso fare quello che voglio, punto. Capito? Quindi, sto bene con loro, loro stanno bene con me. Faccio anche da custode, cosa vuoi di più? si mette a dire se non è in casa tua, quella quell'altro, mi subi qua, mi subi là, ogni giorno si rantella, se me ne affitta a me. Io mi posso comprare quello che voglio, non ho problemi, capito? Adesso le cose adesso, tu mi tu prima, a un certo punto sono davvero finite, scusami, a un certo punto. Vabbè, se tu stai bene lì, nessun problema per me, te lo sai anche tu. Tutto lì, io le cose tue non le so, non le voglio neanche sapere, sono problemi tuoi, discorso quello. Se, vabbè, per quello non sono problemi. Se vuoi fare anche una bella antenna, quando vuoi, sai che sono disponibile, e non c'è problema. Tanto è, dice me l'ha piazzata la misura, ho allungato altri 2 metri e me l'ho fatto da solo. Quindi, non c'è problema. Quando mi serve la mano, so chi chiamare, non c'è problema, capito? Non preoccuparti. Tu pensa per te, che per me già ci penso io. Perché non c'è problema. Non posso mica chiamare gli amici per darmi una mano, assolutamente. Non preoccuparti. Grazie a Dio, ancora ce la faccio. Anche se ho un piccolo disturbo del disco, le cose le posso mattessi. Sto a lavorare, non manco mai. Quindi, la macchina la guido. E quando mi fa male le del disco mi chiedo. Nessuno mi dice niente. Andrà bene. Antonio, mi prendi? Capa, ma c'ho il Nischi adesso. Ho vado bene. C'è il Nischi leggero. Vabbè, lo togliamo, vai. Però questo qua, cazzo, fino dall'altro va, cazzarola. Minchia. Adesso non ce n'è più di Nesco. Lo so, era solo una prova, era. Adesso va bene, giusto? Minchia, cazzo. Una bestiolina è quello lì, cavolo. Minchia. Capo, dai, stavo sentendo un discorso. No, dai, già non c'è problema, ci mancherebbe. Capo, è pure vero, mi non ho chiamato nessuno qua, mi sono occupato di tutto e me lo sono piantato da solo. Antena, mi sono buccio, grazie a Dio, già sono giovane, quindi già. Ho cattato sopra, sta e me l'ho piantato da solo. No, la mia parte da terra. Preso due pollici, pur andando e salendo, ho 6 metri di palo, ma devo mettere un altro palo, più spostato. Grazie a Dio, ho messo le staffe, cementate, dopo 3-4 giorni mi disecco il cemento, allora ho messo il palo, tiranti, insomma, tutto da solo mi sono fatto. E vabbè, pazienza, dai, non c'è problema. Si fa tutto, si fa tutto. Domani fatemi sopra un permesso, ma domani dobbiamo l'antenna. No, io qua, sai cosa ho fatto? Qua per tarare questa, mi sono messo, ho aperto lucernaio, piano piano con lo stup, poi l'ho messo in una posizione bella, posizionato, 1-1 di stazionaria, va che una cannonata va. Ecco, già va bene. Si misura stazionare qui. 1-1, già va bene. Sei parato bene, alza per la malezza, no, ci mi metto. Io ci mi metto da solo, guardo come sono le cose e tutto, metto a mettere la manto qua mi piazzo. Per ritenere una a me. E quando mi metto in testa di fare le cose, cioè, me le faccio bene. Vedo come bisogna mettere tutte le cose, prendermi lo piazzo. Lo piazzo da solo. No, già. Già lo so con tonto, via. Nessuno è tonto. Luca, ci sei? No. Si sente la ventola del condizionatore. Avanti, popolo. Antonio, ma molto, molto forte ti sto arrivando lì a coso. Dove sei tu? 9.25 passato. Sono quasi 9.30. Esatto, sì, bravo, ci sei arrivato. Ma buonissima, ragazzi, già pompa poco che c'è cazzo da fare. Ma che sto pompato se vedi anche a me. a un certo punto, vabbè, l'altro giorno era diversa la cosa, ma adesso cambia. Mazza nene varia, non pensavo cazzo che o ci sei così tanto forte. Due giorni mi sono ammodulato e cosa del genere, io per me, quindi a un certo punto ho dovuto portarmi su tutti gli apparecchi, quelli che avevo. L'ingresso che non ho agganciato l'altro, il lineare, sotto avrei fatto biondo, ti avrei fatto, te lo sto dicendo. Ah, bravo Antonio, adesso sono un pochettino incasinato con le spese, se no cazzo, se no farò da una persona, scendo, me l'ha detto quando vuoi scendi, cazzo non ricomincio da te contento, vedi, cazzo che non faccio nessuna faccia, cioè perlomeno ti do molto fastidio, e io ho paura che ci scioglia tutti i nocchi. Antonio. E dimmi. Io ti dimostro che ho 5 watt, tu ne hai 1000, io non ti faccio ascoltare nessuno, perché vengo con un portatile sotto casa tua, ti blocco la portata, e tu non ascolto nessuno. C'è bisogno di giacopenza, ma io dai. Vabbè, l'ho detto, io sono giovanotto ancora, voi avete già fatto l'esperienza, io lo devo ancora fare. Adesso io l'ho attaccato così, perché no, se no io già lo sai che vado sempre piano. L'ho attaccato per farlo andare, cioè è sempre in flemmo, cioè mi dispiacerebbe se mi si guasta, capito? Ehi, giovanotto, ma che anni vai? Io, 36 anni, ciommi. Giovanotto la usi di zaia. Vabbè. Vabbè, a confronto a voi sono il più giovane. Vabbè, di esperienza, ma la chilo però sì. Però ripeto, non sei manco mi tiro del demogano. Ma chi è rimasto a questo canale? Non lo so. Che c'è? Tutti morti. Così sono nessuno in frequenza. Ma forse non entra nessuno. Comunque Tonino, quando è? Siamo a 36 anni. Lì di fronte alla questura, la verità, rompeva le balle a tutti, i coglioni la verità per esattezza, perché stava sui coglioni a tutti, questo già è vero, ti ricordi tu lì, però non è vero, quando abitavi lì di fronte alla questura, dopodiché ti eri calmato eccetera eccetera, e... però è così, ma io ti parlo di tanti anni fa. Quindi figurati tu, se fai una cosa del genere, passi la stessa cosa, passi. Ma comunque sia, quando eravamo giovani va a far culo a un certo punto, ci divertivamo. A me quando mi rompevano le balle, mi incazzavo, me avevano fatto vedere nessuno, musica, poi via. Ero povero le balle sì, una melantera sopra, qualche watt, un kilowatt, e quindi mi sommavo un po'. Addirittura. Allora, tutti macchi, cioè, ma non c'era bisogno di farci la guerra, cioè, la guerra per che cosa? Non capisco io. Guarda, non ho mai fatto guerra a nessuno, non sono sempre andato d'accordo con tutti, cioè, questa è cosa di farci la guerra. Antonio, tempo fa, no adesso le cose sono cambiate, quando qualcuno ha fatto una prova alle balle, capito? Adesso la cosa è tutta diversa, adesso è rose e viole, dai. C'era più gente prima, più casino, dai. Però era bello. Già me lo ricordo io tempi addietro, non ti preoccupare. Ero un ragazzino, ero, mamma mia, ma sempre la guerra. Gente che si codia e cosa, ma io, ma... Cazzo, ma... Boh. No, nunca... In quegli anni lì non sono mai riuscito a capire la verità. Cioè, andavamo tutti insieme, mangiamoci la pizza, andiamo d'accordo, vogliamoci bene, ma invece no, per la gente che si attrappa le mani, si cudia. E me lo ricordo perché papà ce l'aveva a casa, cioè, ce l'abbiamo sempre avuto il baracchino, poi abbiamo mollato, poi abbiamo ripreso. Cioè, roba allucinante. Allora, quei tempi di tutto di più c'era, guarda. Era tutto di aglio, l'ho detto. Comunque sia, vabbè, ci siamo divertiti e basta, perché altro. Dopodiché si è calmata la cosa, dopodiché sono nati i gruppi, in pratica, quando entravano le ragazze nuove, tutti quanti andavano a cercare le ragazze nuove, sotto casa sua, eccetera, eccetera. Poi c'erano, come si dice, i combine, andavano in macchina, guarda che ti perdono io, eccetera, eccetera. Hai capito? È tutto lì, ma comunque sia, vabbè, ci divertivamo. Tutto lì. Non per l'altro, ma poi sei calmata, no? Cioè, la serie di bisticciarsi è durata, mi sembra, un anno, un mezzo, una cosa del genere, non di più. Dopodiché è arrivato la calma, capito? E si conosciamo le persone, eccetera, eccetera, si cambiava tutto, ci siamo divertiti, la verità. Dopo, non prima, dopo. Sì, ma c'era anche il Portobello, canale 15, scambio di roba è una cosa e l'altra. Mi ricordo il Toro Sciampeo, quando Piero Drago ha detto: Tore, io ho due miliardi parlanti per la macchina tua. E gli viene il bongo, Tore. La macchina tua è sfortella, che non mai se lo firma con gli rimboli. Ma se lo faccio Bandelli, dimmi il buono, tutti gli anni. C'era addirittura, come si chiama, su canale 15, vabbè, quello me lo ricordo anch'io, perché sono incoglionito, ma comunque sia, c'era la vendita di tutto, baracchini, di tutto si vendeva su canale 15. Figurati tu, poi sono nati la questione delle videocassette, i CD, eccetera, eccetera. Sempre vendita c'era, su canale 15. Baracchini, di tutto c'era. Figurati tu, qualsiasi tipo. A parte una volta che è capitato che qualcuno ha venduto un apparecchio rubato, cazzo, mi sono trovato incasinato. Tutto lì. No, di questo non lo ricordo proprio. Io ho fatto, mi sembra che ho due lotterie, in pari a baracchini, persone hanno vinto un po' qualcosa, dai. E una giovintunda, e vabbè. Comunque, era tutto diverso, dai. Sì, c'era un po' di casino, poi qualche antenna capo l'ho stracciato anch'io, a qualche persona l'ho rotto le balle, non bastava più la portante, continuava a rompere le balle, allora sono andato di rotti, e io ce l'ho stato tutto. E erano altri tempi, capito? Adesso siamo calmati, quello che vuoi, però. Forse, adesso siamo anche un po' più pericolosi, non è più come prima. Prima si limitava a mettere portante e a farrarsi, adesso le cose sono cambiate, siamo più seri, più adulti, e quindi è meglio stare tranquilli, dai. Avanti a tu. Capa, io ho sentito storie allucinanti raccontate. Dice gente che si, cioè, la ciappa ventrala si curia, cose del genere. Uno dice che una volta ha pigliato, ne ha tirato dalla macchina e ha cuto, cioè tutte queste storie qua, ma quando mai? Allora, ero anni di fuoco, 77, 78, 80, capito? C'era casino, quando rompevano le balle, rompevano le balle. Ma te rompevano veramente le balle, al punto di che non ce la facevi più, uscivi e andare qui, e boh, mai così. E anche il Rosso Vecchio, quanto l'ha fatto? Adesso è morto, vabbè. Li hanno anche incendiato la porta di casa, fate conto. La portante loro, di Munire sul portante con un cicalino e rompeva le balle a tutti. Parlava male a tutti. E anche lui c'è passato. Quando pure è entrato Marocchino, mi hanno bruciato la porta, e gli hanno bruciato un biduccio. Ma dico, ma perché invece non prendi il baracchino e ti metti a discutere, a parlare del più del meno? Cioè, si comparava, ma che c'ha a fare a girare le balle da niente? Ma perché? Ma non capisco io. Purtroppo, se tu, ma tu, avevi l'età nostra e giri più tempi, tanto lì a tua palla che c'era. Allora, purtroppo, quando si dormiva in queste ore, anche uno entrava a rompere scatole, e uno entrava anche due, poi ne entravano quattro. La cosa è allargata e quindi il casino è più grande. E a tutti i tempi. Ma comunque, lasciamo le cose come sono, che sono meglio così, dai, sono tranquille, sono calmate, siamo diventati più grandi e quindi non pensiamo più a queste cose. A cavare bene sono pure diversi, avanti cazzaniere, fa una cazzata di gente ti può incaricare subito. La prima vaga era un pochettino diverso, erano attenti, non fa casino. Già una volta c'era quelle che ci hanno incappato, che abitava a Tidossi in Chibi, me la pure nella portante, la portante. Cioè, vi capisco, cioè, soprattutto vi capisco benissimo. Cazzo, sono uscito col manganello a cercarlo, me lo voleva ammazzare a colpi un giorno. Se lo trovavo davanti, sicuramente avrei commesso una cazzata. Quindi un po' vi capisco, Cazzo, ma io dico, ma poi cosa cazzo a far rave, veramente, cazzo, questa gente di merda si può fare i cose, purtroppo. Sono cose che sono capitate, ci auguriamo che non capita più, tutto qua. Avanti Antonè. Ho capito che stai dicendo il giro di casa sua, sta parlando. C'è morto quello, non ti preoccupare. Non ti rompe più le palle, già lo sai. Quindi, ora vai morto e se la bia in culo. Sì, è morto, ne ha tanto di fare la palabernacchia, si buona fa. Non è quello che stai dicendo tu, no. Quello lì già lo sapevo, no. Non è che... Non c'entra niente, Antonè. Dice già lo so cucare, ma... Io parlo dell'altro, cioè, l'altro che c'era, che quando ero giù mi rompeva le palle. Cazzo, un giorno ci ho pigliato il manganello, ha detto, se la c'è un cazzo di pacco, un capo, boh, basta, finito. Perché poi io sono bravo, poi quando mi giro divento cattivo. Una volta gli ho detto tre volte di andarsene, uno scemo. Cazzo è macotto, sotto al magazzino, cazzo mi ha messo la macotto, cazzo, lungo il mio golfo, te l'ho messo mano. Poi come l'ho fatto? Un bagno di sangue l'ho fatto, l'ho crepato a pugni, cazzo, non mi fermavo, me l'avevo peccato da mano perché lo stavo ammazzando. Gli ho detto tre volte, vattene. Lui come cazzo l'ho fatto, mamma mia. Io ho capito il microfono, come mi senti? Normale. Male? Normale. Eh? No, perché se mi sono meno sdraiato nel letto, via. Ma dove? Comunque, vedi, con un troppo le palle. E che lo stesso quello che entra, a me non farebbe capire che fa ruta, qualche volta ho sentito. Mi lanciavo per due giorni e due strada e ruttava, e dicevo sempre, guarda che domanda qua non c'è. C'è un abito riso, e poi arriva basso, a me la putti nulla. Ma quando ero giù mi arrivava a fondo scala. E allora vicino a te? Sì, non so come in chive. Qui, se ne venuto uno che arrivava a fondo scala, e mi disturbava, pigliava l'occhio e mi moriva tutto. Ma era lì, era, guarda, se l'avevo trovato il giorno l'avevo accolto. Vedi, in quei tempi tutti forti arrivavamo, capito, appunto. Quindi, avere il coraggio anche con la macchina di venire a rompere le palle. A me ci mettevo col camion a Santa Maria. E poi uscivo di colpo all'improvviso, ero già là. Ho trovato questo tipo, frutta nera, di Cagliari. E per me, una mezza sega, e tu cosa fai? Dai, vieni, dai, compa, dai, ci beviamo una bella birra, ma va, ammazzati, cazzo, mi hai fatto così, metti di voi, poi voi, cazzo, non ho tanto le malle, oh. Sei che andatini dai occhi, ma un rito, vai. Comunque, sono cambiati i tempi, dai. Vedo così, tutto è tranquillo, tutto è calmo, va. Meno male. Vabbè. E sono spariti molti cibi che erano in gamba, spariti. Molti. E molti canali occupati come adesso che c'è deserto. Proprio uno o due canali occupati qua, non di più. E canale 1 era Baronautica, CT Pescherecci, ti mettivi d'accordo a chiamare, e io una mezza cassetta di sardina fenechita. E quello mi ha detto, mi porti una cassa di birra, ti do una cassa di sardina, e io fatta, sono parlato a Marzano, la cassa di birra pronta, al porto, e mi ha dato la cassa di sardina, ha decapitato mia zia, io ero chi, chi è? No, lui ha arruzzi la sardina. Avanti, pupucci. E così si faceva una volta, perlomeno. Adesso è cambiata la cosa. E cosa è cambiata? È un bel cambiato ormai. Tu come più asciugo. Una volta almeno andavi lì a produttore, si parlava la tua camerietta, andavi lì, canale 1. Verso mezzanotte e mezzo andavo lì, dico più quello che volevi tu, sa dire quello che era, e apposta, e invece ormai, fanculo, ha cambiato tutto. Poi c'era canale 9 emergenza, canale 5 c'erano i camionisti, insomma, canale 2 è Maronautica, poi ci muovevamo alle 15, ma come? C'è un canale molto più fatto, guarda. Poi c'era Falcone, che era Tremone. Dove andava, chissà, non c'era, me lo ricordo. Faccio il 20, possibile. Che cosa? Poletto. Ma Poletto c'era tutto il canale, era la pagaccia di tutti ora. Mamma mia. E quando lui voleva fare il gioco della calzetta, che entrava un cimino nuovo, se lo portava sui canali di altri, 34, 40. Era in privato, era. Non me lo ricordo già. Fammi sentire i piedi e senti gli hai giocato molto più meno, così è fin di ferro, E poi ho detto, già gliel'ha fatto un bel po' anche a Pompogno di giocare la calzetta. Già glielo faceva sì a Pompogno, lo faceva eccitare un bel. Ma qualcuno mi ha detto di chi voglia tutti gli schizzi nel muro, che qualcuno gli ha visto la camera. Ah, beh, non lo so, guarda. Una volta il padre, ormai, mi ha detto se lo portavo il figlio in giro, mi dava la macchina sua, mi dava un compenso, no, guardi, io ho il mio lavoro, ho la mia famiglia, non ho tempo di portare in giro persone, come suo figlio lo si perde, e quindi, nulla fa, non sa via, che porta in giro a Falcone. Ah, ma ti pigliano tutti i baronguro. Allora, il tassista è Falcone, non sa via. Ah, ma che pagava per me, che se lo mappo. Oh, quanto faceva incazzare una persona, faceva scolare, che alla fine è entrata anche la madre, a dire cosa. E pensa che sotto Falcone, c'è, cioè, non mi da Falcone, sotto ci abitava la ragazza di mio cugino. E no, mio cugino sapeva che parlava la chiesa, cioè, cosa cacchio li fate qua? Lo sento strillare in voce, non sono io, no. Lo fate incazzare. Io ero un ragazzino, ero. Cazzo che ha detto che c'è un bucaccione, ha inteso. Che c'è tutto eccitato. Perché ero giovane, capito? Allora, mi ricordo se provavo una cosa che gli ho detto. Gli ho detto seghettina, gli ho detto. Si è mezzo incazzato, sì. Comunque, è fatto con la testa, vai. Ogni tanto ce lo vedo, ragazzi, la carità. Sì. Ma poi, ma molto sì. Sono qua anche per compare. Adesso vado, passo in QVP perché ci siamo addormentata e quindi devo fargli compagnia. Al limite ci sentiamo domani. Statevi bene, buonanotte a tutti e due. Mi ha fatto piacere sentirvi, eccetera, eccetera. Se uno sia l'altro. A domani. Ciao ciao. Scusa Antonio, ma se Simone è addormentata, cosa andrà a fare compagnia? Se fa compagnia vado in sveglia. No, addormentata proprio, il discorso è questo. Hai capito? Non è che sia sveglia, proprio addormentata. qui devo andare da dentro, hanno metà me anche io, fargli compagnia, il discorso è quello, se no sei rimasto qua, baracchino, sta tranquillo. Beh dai, ciao a voi, per il piantone, ci sentiamo, avanti a tutti. Sì, chiappa, ciao Antone, ci sentiamo. Sara non è addormentata qua in camera. Sì, ma non c'è problemi che c'ha Simone, il discorso è quello, capito? Il discorso è quello lì, se no volentieri, come la prima, è stato quello, sei stato fino a mezzanotte e mezzo in giro, non la baracchina, no, sei stato in giro quella volta, il discorso è quello, purtroppo ormai è... quello che lei deve stare dentro a casa, hai capito? Ha avuto quello che ha avuto e cosa ci posso fare? Devo sopportarla così, non posso farci niente, non posso, quando esco devo avere l'orario per uscire 5-10 minuti, non di più, eccetera, eccetera, devo entrare subito a casa, eccetera, eccetera, quindi il discorso è quello. Ormai sono fregato. Lo so, ti capisco. Cosa si può fare? Hai voluto la bicicletta, pedala. Lo so, Tony. Ho avuto la bicicletta, sto pedalando, ma parecchio sto pedalando, no? Non appena, sto pedalando parecchio addirittura. Quindi figurati tu. Ci sono gli orari, quando vado a fare la spesa devo essere subito a casa, mi telefono ogni 5-10 minuti e cose del genere, quindi figurati tu, cosa sopporto io. Perché sei debole, caro Antonello, anche tu dici, no, oggi pure cose cambiano, perché se no va fatto, io ho tutto carattere. Allora, tu mi chiami quando devi chiamare noi, ci capisci, qui a basso. Sì, io esco, vado a fare la spesa, e mi voglio bere una bicchiere di vino, me la prego e parlo. Non lo parlo. E dico, dei fattori che non solo tu devi stare lì, ma anche lì devi stare a te, se no la cosa non va più avanti. E lui ti vede un po' come andare a te, scusa, fare molte cose. E tu devi pedalare sempre di più. No, è male, io pedalo molto di meno. Tu dici, ma vai, se ti ci calmiamo. Sono ti calmi, ciao. Io ci ho fatto così. Se no tu, poi, diventi macco. Cosa vuoi dire? Adesso quando vado a fare la spesa, in pratica al bar non ci posso neanche entrare. Quindi in pratica mi prendo 4 lattine e le bevo a casa, hai capito? Il discorso cos'è? Poi devo cucinare, eccetera, eccetera. Sto facendo il bandante, sto facendo, hai capito? Sto facendo veramente il bandante. Le balle piene, la verità. Prima mia madre, mio padre, mie zie, mio fratello, adesso lei, quindi mi dici tu in che condizioni sono io? Aspetta, mando un messaggio, ripeto a te. Cappa, ti capisco Antone, ti capisco. Cosa vuoi fare? Ti capisco. Purtroppo è così. Cosa c'è? Un indomani, se succederà quello che succederà, io penso che rimarrei da solo. Sì, anzi l'ho salvata per culo, la verità, l'ho salvata veramente per culo, quindi guarda che io ho rischiato dopo 2 giorni di crepare io, figurati tu. Sono stato ricoverato, sapete che cosa? Perché io sono andato a bere una birra insieme a mia sorella, non ho detto niente, poi la sera mi sono bevuto una bottiglia di spumante. Sono crollato in cucina, mi ha trovato mia nipote e mi ha trasportato all'ospedale. Figurati tu. Ma non bere così, Antone, che fa male. Tu immaginati, te lo sto dicendo, è così, io purtroppo sono una persona così, hai capito? Sono sentimenti, capito? Il discorso è quello. E quindi ho avuto le conseguenze quella volta lì. E grazie a Dio, forse mi ha salvato qualcuno, non lo so. E io mi sono svegliato al pronto soccorso, ho preso, mi sono svegliato e mi sono andato pure via, non solo l'altro. Antonio, è l'unica cosa di non arrendersi mai. È quello che ho detto anch'io. Non ti sto a mettere più in testa. Sì, anche tu con le palle. Purtroppo è così. Cioè no, me la vuoi tenere una cosa del genere. Purtroppo. Tu non hai visto morire una persona avanti, il discorso è quello, cioè morire. Era quasi morta, il discorso è quello. Quindi ti rimane sempre in mente, hai capito una cosa del genere? Allora alla fine crolli, il discorso è quello. Senza niente, per dire, sempre tranquillo ma crolli, il discorso è quello lì. Ma adesso la cosa è diversa e quindi cambia un po', speriamo che migliora. Ale, guarda che prima o poi succederà, tu non sei consapevole di questo. Che ti tratta così, no, non esiste a parte mia. Io sono stato sempre quello che voglio fare io e nessuno mi cambia la testa se il mio programma che c'è adesso devo fare. E mi riesce la classe, me lo cambia. Io la vedo giusta così, non sono ragazzino, quindi le cose le vedo così e sono così. Giustamente, quando sei con la tua metà e non ti fai male, però un 50 e 50. Ma il 60 lei e 40 io non esiste. Quindi sempre 50 e 50, se no va fatto. Io sono fatto così. A lei, tu devi essere consapevole che prima o poi succederà. Lo sai. Io dico, dopo di quello, se succederà, io spero di no, perché non si augura nessuno. Dico solo una cosa, te lo dice un amico, te lo dice. Dopo di quello, goditela tu. Goditela. Perché non si ha niente dalla vita. Io ho visto mia madre, ha fatto una fine brutta, poverina, e ho sofferto tanto, e so che cosa vuol dire. Io già lo so, non ti preoccupare per quello. Già sto reagendo, non mi sto buttando giù, grazie a Dio sto reagendo. Ma parlo che quelle malattie sono come sono. Prima o poi, neanche te lo aspetti, succederà. È una malattia che progredisce, no? Non è che un resto qua un pochettino di tempo stabile o progredisce. Purtroppo è così, bisogna tirarsi su, andare avanti e fare le cose meglio possibile. E già lo so, vabbè, vedremo di migliorare un pochettino, va. Ma io ho visto anche mia suocera, poverina, che ha voluto amare davvero, ed è successo anche lì. Ho visto mia nonna morire, ho visto tante cose nella mia vita. Però ho capito che bisogna tirare avanti. E adesso non solo io e Sara, quando capita ce la divertiamo, non me ne frega più nulla. Perché tanto la vita è una sola. Una vera. Una persona sola, io ne ho avuto 5, bello è quello, quindi figurati tu, 5 persone ho avuto io, l'ultimo è mio fratello, lui vabbè, dopo mio fratello Simona, il discorso è quello lì, sembra fatto apposta, quindi a un certo punto, vabbè, devo accettarlo, accetto quello che mi dà il Signore, va a far cuffia, a un certo punto. Devo soffrire, soffrirò, quello che posso dire, non posso mica ammazzare, no? Quindi, la fancuffia, a un certo punto reagisco e va a fanculo, non mi interessa nulla di nessuno. Capo, riprendi, Tony. qua, io a te te lo sempre detto. Vedi tu, se non va bene che tu ti riconvergi a te. A male curio però a me. Spero di no, guarda, Dio, spero di no. Spero di non fare come a fine, perlomeno. Leggermente è brutto a me. Non devi cedere, devi essere tutto, forte tutto, non c'è tutto. Sì. Ma è fatto mandare lì, perché poi ce l'approfittano e ci pigli la parola. Paga di lì, che non riusci tanto me. Sii forte, e se no, poi ti appare tutto. Hai ragione, hai ragione. Sì, certo. Sono cose molto brutte, insomma. A casa. Immediatamente, capito? Si porta via tutto e non mi lascia un tubo, come ho fatto con Maradona, tale uguale. Hai capito? Tutti fanno così. Allora, io ti devo dire una cosa ai 448. Non è tua moglie. Lo so che ci sia la vita. Però se me, io sono una persona come sei tu, che c'è la persona quanti anni ci sei tu, eccetera, eccetera. Mi ha passato cose brutte, ma voglio dire, guarda, un domani che è poi insopportabile, che a me mi fa venire a male copie, è stato male che fa una cosa, non se mi muoio di fa culo. E io ho fatto così, così voglio fare la mia vita ad armare i pallacchi. Ah, per quello c'è ragione. Che è vero quello. Adesso la curi come meglio possibile, lo so che magari ha bisogno di tante cose. Finché ce la fai, Antoni? Cosa vuoi fare? Vabbè, purtroppo. Aspettiamo un pochettino, poi si vedrà. Quando rimediamo le cose, tanto ormai siamo tutti in mezzo alla merda, tutti. Non puoi fare nessuna vista, niente, non puoi fare proprio il tubo. Se non vedo la cacca, a un certo punto. Marco visite per fare la visita, per avere la pensione, niente, non puoi fare nulla. Il discorso è quello lì, siamo in mezzo alla cacca, quindi devi aspettare. Perché io, in verità ce l'ho, il discorso è quello. Per avere la mia pensione, cosa me ne frega a me di questa storia che sto pigliando adesso? Non me ne frega proprio niente, cioè è un handicap più che altro, capito? È un piombo, quindi a me interessa avere la roba mia, ogni mese vado, mi ritiro quello che mi tocca, se c'ho 50 euro, insomma, se 50 mi ritiro, chi se ne frega? Ogni mese ce l'ho, non devo stare a cazzo ogni volta. Devo andare a casa con questa carta a farmi la spesa e se per caso lascio per dire il 10-20 in più mi metto una sanzione, ma stai scherzando, cazzo, il tasso non esiste, no. Guarda, avrei preferito, guarda, che mi avessero dato la pensione, la verità, non avere i miei 650 euro ogni mese con la legge 104 e va a fanculo a un certo punto, tutto lì, ma se sta tranquillo, 650 euro ogni mese mi ritiro ogni mese senza avere problemi né niente, non esiste cosa, no, questa cazzo di cagata di carta che l'ho fatto, cazzo, solo per che cosa, cazzo, per questa comunità non l'ho fatta, per pigliarsi il cazzo di coso, come è uscito oggi in giornale, vedo cittadinanza, cazzo, per portare i soldi cazzo fuori, cazzo, per il coso, ma la fanculo, cazzo, a un certo punto. Ma l'hanno bloccato questa rete cittadinanza, Antonio? Ah? Ma l'hanno bloccato per caso? No, non l'hanno bloccato, comunque due persone, a quanto sembra, che hanno scritto su internet, dice che hanno piato, vedi tu cittadinanza, due pakistani, a mandarla fuori, tu figurati, cazzo, non so come cazzo l'hanno fatto, a mandare 700 euro a questo tipo qui che in pratica è in coso in Siria, non ha giù compreso come cazzo l'ho fatto con la legge di cittadinanza, quindi adesso c'è un bel casino, ci sarà, boh, mi avesse è vero, è tutto da, da vedere, naturalmente. Io non so la verità, papà, tanto c'è solo pagine e papà, perché mi stanno soffrendo persone che non ne hanno bisogno. Avrei fatto una bella pulizia, come si deve, soltanto a chi realmente è bisognoso. No, a niente che non va nulla drogata, si dipinge al dazio, si pareggia la droga. No, no, io te li apri tutti. No, vabbè, quelli lì li apri tutti subito, però chi ne ha bisogno veramente che in mezzo alla strada, o in mezzo alla mezza, cioè bisogna darlo. Cioè, secondo me, chi veramente merita e chi veramente sta male, bisogna darlo la possibilità di farlo stare più bene, però chi no... Chi non ha, cioè, chi non lo merita, i primi dosi, cioè i dosici, quelli non lo meritano, quelli la mandano a mara puro. E infatti sono bisognosi, sto dicendo. Faremo una bella pulizia, o guardare chi proprio non ne ha bisogno, a poca miglia, e poi. Sì, solo chi veramente ha bisogno, cioè, solo deve, bisogna sceglierli. E invece ci verranno i buruissimi, una gaccia di birra, e un ragazzo di se finanziende. Cioè, la gaccia della birra di se finanziende. Mica si comprano la pasta asciutta a mangiare, quelli vivono così. Beh, e poi per fare fuori. Aveva promesso che diamo il lavoro, dove il lavoro? Allora, tu sei cambiato di insegnante, cammina fuori la città. No, e allora non ti preoccupi nulla, chi ci avrei fatto? Sì, ma il lavoro ci vuole, come se ci vuole? Cavolo. Io guardo, tutto va bene, mi dice l'altro anno vado a pensione, perché adesso ho pensato nel 2 dicembre, quindi. Ma ci trovavamo una vita, ciò che cracco, non basta, ora sempre lavorato. Vabbè, avanti a te. Te la godi come vuoi tu. Lo so, tu hai lavorato e quindi gli altri ormai, hai capito. Poi ci sono, lo sai, quei casini in pratica, perché vanno a lavorare a raccogliere pomodori, cipioni, finocchi, quello che è. Hai capito? Tutto quel casino, tutto fatto in Italia, perché altro. Perché io ti assumo, tu assumi gli amici tuoi pakistani, gli dai un tanto uno a te e tanto uno agli altri, il discorso è quello. Ecco perché mi vuole tipo schiavi, tutto lì, hai capito? Tutto per così in Italia. E gli altri ci hanno raccolta bene, il giorno dopo che si girano le balle, che facciamo la fine dei tedeschi e dei francesi, tu vedrai che a uno a uno ci escono fuori questa comunità, lo dico io. Vabbè, dai, mi ha chiamato Simona, ci sentiamo domani. Ciao Tony, ciao. Buonanotte, buonanotte a tutti, a quelli che stanno ascoltando, eccetera, eccetera, anche a chi c'è nel canale. Così faccio compagnia a Simona, a dormire, almeno mi gira i malongrasse. Ci vediamo domani sera, domani mattina, ok? Ciao, per le pizze della città, Simona. Ciao, ciao, buonanotte. D'accordo, ciao domani. Ciao, buonanotte Antonio, ci sentiamo domani. Ciao Lanto, ci sentiamo domani, là. Ok. O in PMR oppure, cioè vabbè, ci sentiamo in PMR allora. Tanto tu sei in PMR domani mattina, quindi a un certo punto. Cioè va bene così. Ti chiamo domani. Non so se lo prendo il PMR. Vabbè, se lo prendi già... Io ce l'ho a casa. Sono a casa domani mattina. Se non sono a casa, al limite me lo porto appresso. Quale problema? Faccio un giro lì in via Venezia, quindi già ci sentiamo. Già ci vediamo al limite. Se sei vicino ci facciamo, vabbè, se hai due o tre minuti di tempo, ma che è chiacchierato, ok. Allora, ciao ciao ciao. Capo, che c'è lì? Nome di casino, di travaglio. E cosa? Vabbè, non c'è problema. Ok, a Mattone, se ci vediamo già, già ci facciamo una chiacchierata. E via Venezia, cos'è la via Venezia? A parte già. E cos'è me lo so fa molto a lui? La verona, va, quello che vuoi. A me lo li parlo sopra, li parlo e lo faccio schiattare. No, c'è a me là. Ok, allora ciao a tutti. Ah, ripeti con Tomino, ciao ciao. E ci vediamo domani. Al limite, ci sentiamo domani più che altro, va. Se al limite sono lì, ti chiamo, col PMR già non c'è problema. Ehi capo, adesso lo porto domani mattina al PMR. Ehi, adesso appena che mi metto a posto l'altro, mi porto l'altro che è più piccolino, più pratico. Vabbè, non c'è problema quello, va. Ok, allora ciao a tutti e tutti e due. E anche lui che è il porco. Ma la mia bellezza ho detto così, va a passeggiare. La mazza. Tanto. Eia. Ma la mia bellezza cosa vuoi fare? Ma che ne so, co. Ah, ma ho aumentato tu. A passeggiare, ma ho aumentato di... ho aumentato qualcosa. Ma non sto guardando, ho sentito la baracchina, ho messo il macchino, il microfono normale per il supercampo. Ma si è aumentato il segnale. Si è posato. No, tu, si è aumentato. Io? Si è giocatuta, faccio un prato. Ma ho giocato nel gioco. Ah, sì, quasi 9.30, sì. Boh, niente, per il gioco. Un baracchino è strano, va. Quasi 9.30, sì. Proponio era 9.30, fisso, tu sei quasi 9.30. C'è un bel forte, poi che sei 9.25, dai. Scusa, ma che poco fa, come ti arrivato? Appena di meno. Io non ci vado a stare all'umidità, avevo fondato, boh. Ma guarda che lo può fare, me. Ah, boh, non lo so. Cazzo, se fosse un bel, sì. Non lo so. Cazzo, comunque mi accorgo che questo qua può un po' di più, cazzo. Non venuto dai, ma che c'è appena a Torino, però va. E infatti sei saturo, sì. Ma saturo sono. Sì. Non ammara. Sì. Prova a vedere adesso com'è. Molto di meno di segnale, è vero. Com'è adesso? Prova. 1, 2, 3, prova. Ho trovato un passaggio, ero complicato quello fa. Prova, due passaggi fai. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ci attacco. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Da 9, 18 a 9, 3. Cazzo! Una cosa. No, stazione non ne ho. Make again. Va bene così. La potenza. Va bene così. Bisogna andare fuori a prenderlo. faccio, mi ci ha trovato alla ZG. Adesso vediamo se mi arriva. No, ma già c'è. Tu quanti latte c'hai? Penso più di 100, penso. Io voglio procurarmi di prendermi quello 1000. Mamma mia. Quello lì, quello picchia. Sì, quello di sul nome è splatta la turba. Lo so. Vabbè, tu già sei in campagna, sei tranquillo, solo che no che arrivi forti, tutti i canari si intendere. E tu pensa anche con questo microfono, 1000 watt, cosa? No, non attaccare con l'antenna, mica, adesso mi sono ricordato. Massimo dico 100, non di più me. Mi devo comprare un'altra antenna. Ah, ne ho un'altra? Una che sopporta sui 3 kW. Allora sì. Cazzo, ma quella lì non attaccarmi nella Energy, se no cazzo copieggia. No, ma dai, 1000 lo metto. 2000 sì. Cappa. Non sai chi regge così tanti watt, la Superlem. Anche la 4x1. 4x1 mi pare intorno 1000, 1500, 2000 mi pare, non di più, eh. Ce l'avevo io la 4x1. Sì, la 3000. È difficile trovarla quell'antenna, lo sai. Io la so. La vuole qualche fuori, niente, non la fanno più. Non è pazienza. Dove va? Chi ce l'ha se la tiene? Gelosamente. Vabbè. E che ci puoi fare? Io domani mi sono preso un bel permesso, così mi riposo. Quasi recupero 3 giorni al mese. Quindi abbiamo 42 giorni di ferie all'anno, fate il conto. Questo mese mi sono preso un giorno soltanto e boh. Ciò per 15 giorni di ferie. Già, va bene. Poi come fa a fare, capito? Poi, prima di Natale, mi fa fare il giro apposta, per andare al palazzo, provincia, poi la posta, poi la bambina, quello quell'altro, insomma. E lì mi recupero altri 4-5 giorni di ferie. Perché io perdo soltanto un'ora. Vado, inizio nuovo giorno, finisco all'1, all'1 e 5, all'1 e 10 massimo, e ho la giornata pagata. Me la faccio mettere in ferie, quindi ce la posso. Scappa, già va bene, già. Uia. Uia, a questi giorni ci prendiamo il caffè, Tony. Quando vuoi. Io domani già sono libera. Io purtroppo no. Tu stai lavorando. Quando sei libero? Domenica. Domenica, sabato sera. Sabato sera devo fare delle cose, se vuoi, mezzo incasinato. Domenica mattina ci vediamo, c'è problema. Ok. Se non piove vengo. Ok, ci troviamo. Perché scusa, se piove, lo caffè lo devo conbigliare. Mi biglierò dra. O passo io a trovare, se non c'è problema. Vabbè, non c'è problema, ci mettiamo d'accordo, ok. Capa. Ok, là. Io adesso mi ci corico perché sono stanco, cazzo, ma la mangiano, sono un cucco. Anche presto devo andare, devo caricare, domani mattina, devo caricare bomboli. Uia. Dai, grazie della chiacchierata, ci sentiamo domani, ok? Se coincide. Oh, capa, io hai troppo poco capito. Ho fatto che volevo fare che mi basta niente dal baracchino, ma che moto già accetto. In tal caso ci sentiamo, dai. Ok, anche per sempre domenica, non c'è problema, ci mettiamo d'accordo. Ok, tu, piacere mio, buon fatto. E buon 144, ci sentiamo domani, dai, in tal caso. Ciao, stammi bene. Ciao, buonanotte, ci mettiamo d'accordo, ok, ciao. E io, ciao. Ciao.